GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Schizza all'insù il prezzo del gas. Per riscaldare una casa di 70 metri in classe G quest'anno servono 230 euro in più e vola anche l'energia. La crisi di automotive e elettrodomestico pesano sulla metalmeccanica. Pordenone, assemblea Wilm tra ammortizzatori e contratto. Il laghetto Alcione di Udine era oggetto di una causa per sfratto. Torna nella disponibilità dei proprietari il locale dell'omicidio di Capodanno. Al salvataggio della speleologa Ottavia Piana ha preso parte anche il soccorso alpino regionale. Da Bergamo le voci di due tecnici. 12:31, buongiorno da Andrei Marušić e Rita Micoli. Cominciamo dalla nuova ondata di rincari sulle bollette. La spesa per luce e gas a fine anno non è mai stata così alta, rilevano le associazioni dei consumatori, e le previsioni per il prossimo anno non sono ottimistiche. Preoccupazione anche fra le imprese. Il rincaro più corposo riguarda il gas, oggi salito a 48 euro al megawattora per un'abitazione di 70 metri quadri in classe energetica G, meno performante e oggi prevalente in Friuli Venezia Giulia. Si stima tra novembre di quest'anno e marzo 2025 una spesa di 230 euro in più rispetto al caro bollette del biennio 2022-23, pari al 20% in più, che schizza al 68% in più se rapportato al periodo pre-Covid 2019-20, ossia 570 euro di spesa aggiuntiva annua. Per un'abitazione di 110 metri quadri si stima invece una spesa di 380 euro in più rispetto all'inverno precedente e di circa 1000 confronto al periodo pre-pandemia, dati dell'Osservatorio del Movimento Difesa del Cittadino sulla base degli ultimi indicatori disponibili forniti da più parti. Non va meglio sul fronte dell'energia elettrica. Tra novembre e dicembre, per un nucleo familiare di 2-3 persone, l'incremento sui costi in bolletta oscilla tra il 4 e il 7%, un ulteriore aumento rispetto a quello del 12% rilevato dall'Authority nel terzo trimestre di quest'anno sul precedente, e le previsioni per l'anno che verrà non sono ottimistiche. Solo per l'energia elettrica si stimano aumenti anche del 30%, a trainare la nuova ondata di rincari, secondo gli analisti, i maggiori costi delle materie prime, l'inverno cominciato in anticipo e le tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori esprimono preoccupazione per la tenuta dei bilanci familiari a fronte di aumenti che si sommano a quelli sul carrello della spesa, pure in forte crescita. Il passaggio al mercato libero non ha contenuto i prezzi in bolletta, osserva Consumatori Attivi. Il consiglio è di controllare periodicamente sul portale delle offerte dell'ARERA eventuali contratti più vantaggiosi. Dalle associazioni dei consumatori anche la richiesta di politiche di efficienza energetica a sostegno delle famiglie. Preoccupazioni intanto anche fra le imprese. Confindustria Alto Adriatico conferma l'impennata dei costi di luce e gas nell'ultimo trimestre, a fronte di consumi in calo e nonostante gli importanti investimenti nel fotovoltaico, un problema per l'associazione degli industriali che sta minando la competitività delle aziende in un contesto economico già non facile. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Anche il 2025 sarà un anno difficile per il settore metalmeccanico in regione. A Pordenone dall'assemblea Wilmi timori per Electrolux, Savio e altre fabbriche. 11 milioni di ore di cassa integrazione nei primi 9 mesi dell'anno, più 14% rispetto al 2013. Il dato più alto è in Friuli Occidentale, con 5 milioni di ore. La metalmeccanica in regione conta 55.000 occupati, 9.000 solo nella filiera automotive. Stamani a Pordenone è l'assemblea dei delegati Wilm del Friuli Venezia Giulia, con la presenza del segretario generale Rocco Palombella. Al centro del dibattito il rinnovo del contratto nazionale e la crisi dei settori elettrodomestico e auto, all'indomani del tavolo al Ministero delle Imprese. Rocco Palombella, segretario generale Wilm. Ieri ci sono state tante parole, tanti progetti, tanti buoni propositi, ma da un punto di vista concreto noi non abbiamo avuto la percezione di un cambiamento di passo. Non si sa quando e come si produrranno le auto in Italia. Questo ha provocato una paralisi giustamente delle produzioni, e questo si ripercuote su territori che non producono direttamente auto, ma hanno, diciamo, l'onere di produrre componentistica. Il 2025 si preannuncia in salita, e all'insegna dell'incertezza preoccupano Electrolux. Con i contratti di solidarietà in partenza da febbraio e Savio, da gennaio richieste altre 13 settimane di cassa integrazione, ma anche ZML, SIAP, Biasi. Roberto Zami, coordinatore WILM Friuli Venezia Giulia. Il 2025 è un anno che si apre in salita, tant'è vero che già stiamo incominciando a fare la cassa integrazione guadagno ordinaria per i primi mesi dell'anno. E abbiamo dei punti critici in particolare nel nostro territorio che riguardano il settore dell'automotive con la SIAP Movimento Terra, la Zanussi Metallurgica, la Savio Macchine Tessile, il Meccano Tessile, ma anche l'elettrodomestico, perché oggi fortunatamente stiamo lavorando 8 ore al giorno, ma le comunicazioni date dall'azienda ci portano a una riduzione dell'attività lavorativa già dal mese di febbraio. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Mentre si attende l'udienza in corte d'assise a gennaio per l'omicidio di Ezechiele Gutierrez, ucciso la notte di Capodanno a Udine durante un veglione dal connazionale dominicano Vasquez Dipre, il locale in cui tutto è successo, il Laghetto Alcione, è appena tornato nella disponibilità dei proprietari. Era infatti in corso un processo civile per lo sfratto dell'ex affittuaria. Mette piede per la prima volta dopo 2 anni nel suo locale, il Laghetto Alcione, Alessandra Rigo, la legittima proprietaria. Ieri l'ufficiale giudiziario ha riaperto le porte ed eseguito lo sfratto della signora domenicana che gestiva il locale dal 2017. A Capodanno era dentro senza titolo di starci, indica la legale di Rigo. Quando fu organizzato, il veglione è risultato fatale per Ezechiele Mendoza Gutierrez. Per il suo omicidio è stato rinviato a giudizio in corte d'assise il dominicano Anderson Vasquez Dipre. Sono rimasta molto male perché era evitabile, si poteva evitare. Tutto è quasi cristallizzato quel 1 gennaio 2024. Alessandra ha promosso una causa civile nel giugno 2022 per entrare in possesso del locale dopo alcuni mesi di affitto non pagati e un preliminare di compravendita saltato. La sentenza che le ha dato ragione è arrivata 2 anni dopo, nel maggio 2024. 6 mesi dopo, eseguito lo sfratto. Se la giustizia era più celere, le cose forse sarebbero finite prima. In Italia un processo civile in primo grado dura in media 675 giorni, in Europa 237. A Udine, dove c'è stata anzi una diminuzione dei fascicoli, i 2 anni di questa causa sono tempi relativamente rapidi, fa notare Giovanni Ortis, vicepresidente della Camera Civile di Udine, opinione condivisa dalla legale di Rigo. Avvocato Erika Vacchiano. Ritengo che non sia una questione di tempi di giustizia, ma più che altro penso che forse controlli un po' più accurati di come veniva gestito quel locale, piuttosto che delle persone che lo frequentavano, forse avrebbero potuto impedire questo evento. Per il futuro la proprietaria ancora non sa che ne sarà del Laghetto Alcione. La speranza è che torni innanzitutto l'acqua in questo bacino abbandonato. Nel mio cuore c'è che ritorni i giochi dei bambini, un agriturismo per le famiglie, a portata delle famiglie. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una squadra del soccorso alpino e speleologico proveniente dal Friuli Venezia Giulia ha preso parte all'operazione di salvataggio della speleologa Ottavia Piana, infortunatasi nella grotta Abisso Buenofonteno, nella Bergamasca. Nel pomeriggio di sabato l'operazione si è conclusa alle 3 della scorsa notte. 16 tecnici della nostra regione che hanno preso parte al complesso intervento che ha visto operare 159 persone da 13 regioni italiane. Oltre a loro c'erano l'ambulanza e i vigili del fuoco. La ferita in buone condizioni è stata ricoverata all'ospedale di Bergamo. Le operazioni di soccorso si sono protratte ininterrottamente per 75 ore. Un contributo fondamentale all'operazione è stato dato dalle squadre del soccorso alpino e speleologico regionali. Ascoltiamo dunque le interviste a Paolo Manca e Giampaolo Scrigna, entrambi triestini, che spiegano la complessità dell'operazione. C'è una direzione delle operazioni fuori di grotta, e poi le squadre che entrano, ogni squadra diciamo ha un caposquadra e sono ruoli praticamente sinergici, complementari, perché tutta la scelta strategica degli interventi ruota intorno a queste due figure, che spesso sono due figure intercambiabili in sostanza. Quindi in questa occasione Giampaolo ha coadiuvato fuori la direzione delle operazioni e io ero caposquadra di una delle squadre insomma, che ha recuperato sotto. Le difficoltà in questi casi soprattutto è diciamo, riuscire a garantire il soccorso sanitario, noi avevamo sempre diciamo, un medico e un infermiere, e quindi coniugare le necessità del ferito e quindi degli stop fisiologici necessari per la stabilizzazione del ferito, però senza diciamo, compromettere il recupero e un ritmo di recupero. La grande complessità è stato riuscire a coordinare e a gestire le tempistiche dei 158 tecnici che hanno partecipato, in modo che non si sovrapponessero le difficoltà, che erano già tante, data la complessità della grotta, la distanza in cui è successo l'incidente e la quantità di persone che si muovevano contemporaneamente in territori anche inesplorati, perché una parte del rilievo era assolutamente conosciuta. Un'idea dello sviluppo in lunghezza della grotta? Una persona normale, uno speleologo esperto o mediamente esperto, sono 4 ore di progressione per arrivare al posto dell'incidente. La grotta era molto articolata, non complessa, ma molto lunga nello sviluppo sostanzialmente. Si presentava all'inizio con una forosa sotterranea, quindi diciamo con un piccolo torrentello d'acqua che quindi creava delle pozze, delle aghe, eccetera. La natura molto meandriforme, fino a circa una profondità di 250. Poi da là in realtà si cambiava completamente regime, perché si risaliva per altri, diciamo, 200 metri, però diciamo per uno sviluppo totale fino al ferito. Le prime squadre che appunto sono venute fino al ferito, si parla circa 5 chilometri più o meno. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. I carabinieri a presidio del valico di Dolegna del Colio Vencò hanno intercettato un 63enne polacco che stava trasportando a bordo della propria auto 4 clandestini. I presidi e i valichi di frontiera sono ormai ripristinati dall'ottobre del 23, quando è stato sospeso il trattato di Schengen. Il presunto passer, fermato a fine novembre, è stato arrestato a seguito di successivi controlli per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e portato in carcere a Gorizia. I 4 passeggeri, tutti di origine turca tra i 20 e i 30 anni, sono stati denunciati a piede libero per ingresso nel territorio in regime di clandestinità e accompagnati negli uffici della polizia di frontiera. L'auto del cittadino polacco è stata sequestrata. Fuochi d'artificio stoccati accanto a materiale infiammabile in un negozio di Spilimbergo li hanno rinvenuti gli operatori della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pordenone durante un controllo. Il materiale pirotecnico, 65.000 articoli, si trovava sugli scaffali della rivendita all'interno di 19 scatoloni, accanto a vernici, scatole di cartone, plastica, tutto materiale infiammabile. La norma prevede che quel tipo di prodotto, in quantità limitata, debba essere tenuto a un paio di metri di distanza dall'altra merce in un locale dove non è consentito l'accesso al pubblico. Il titolare del negozio, un cittadino cinese, è stato denunciato. Ora il meteo, il cielo è coperto su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana, le temperature delle 11 a Trieste 9 gradi, a Udine 7, a Gorizia e Pordenone 5,5. Sul Piancavallo 6,5 gradi, a Tarvisio 6, a Forni di Sopra 5 gradi, a Tolmezzo 4, a Sappada 1,5 gradi. Sul Monte Lussari 9 gradi, sullo Zoncolan 7,5 gradi, sulla costa Grado 7,5 decimi, Lignano 7 gradi. Le previsioni oggi sulla zona montana: cielo da poco nuvoloso variabile con inversioni termiche marcate nelle valli. Su pianura e costa cielo da variabile a nuvoloso con possibili foschie o nebbie, più probabili comunque su bassa pianura e costa e nelle zone verso il Veneto. Domani al mattino variabile in montagna, da nuvoloso a coperto con foschie su pianura e costa. Dal pomeriggio sulle zone orientali saranno probabili piogge sparse, inizialmente deboli, più abbondanti poi nella notte successiva. In montagna in serata deboli nevicate oltre 800-1000 metri circa sulle zone interne, oltre 1200-1400 metri circa sulle prealpi. In tarda serata e nella notte successiva probabilmente soffierà scirocco moderato sulla costa, più sostenuto il mare al largo. Venerdì 20 dicembre, sabato 21 e poi sabato 4 gennaio e domenica 5 gennaio sono le date di maggior traffico previsto sulla rete di autostrade Alto Adriatico per le imminenti festività di Natale inizio anno. Transiti destinati ad aumentare, in particolare sull'autostrada A4, il bollino giallo del pomeriggio del prossimo venerdì da Venezia a Trieste è destinato a diventare rosso, traffico intenso con il passare delle ore. Per il concomitante rientro dei mezzi commerciali sociali verso il centro-est Europa e il ritorno dei lavoratori stranieri oltre confine con possibili code e rallentamenti alla barriera di Trieste e l'Isert. Code e rallentamenti che potrebbero ripetersi sempre all'Isert sabato per le ultime partenze dei vacanzieri. Con il primo fine settimana del 2025 tornerà a intensificarsi il traffico con bollino giallo già dal mattino di sabato 4 per l'avvio dei saldi invernali e poi per transiti in aumento sia in entrata alla barriera dell'Isert sia lungo la tratta da Trieste a Venezia. Si replicherà domenica 5 con traffico sempre sostenuto lungo tutta la A4 in direzione Venezia. Un anno di attività e tante risorse stanziate. Si chiude il 2024 del Consiglio regionale con il bilancio del presidente Bordin. Un anno di Consiglio regionale, 60 di statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia. Il bilancio del presidente Mauro Bordin parte dagli 800 milioni di euro in più di risorse stanziate nel 2024, 7 miliardi e 400 milioni il totale attraverso le leggi promulgate dall'Aula. La salute, 3,6 miliardi, è il settore che ne beneficia di più. 1 miliardo è andato alle infrastrutture e 621 milioni alle autonomie locali, numeri che comportano responsabilità nell'utilizzo, sottolinea Bordin. Leggi, 23 progetti presentati, 13 di iniziativa della Giunta, 10 di iniziativa consigliare, di cui soltanto uno passato, in tutto 14 approvati nel corso di 56 sedute dell'Aula. L'attività legislativa, oltre a mozioni e ordini del giorno, comprende anche 9 petizioni popolari, di cui 2 esaminate in commissione con risoluzione inviata alla Giunta. 113 invece le sedute delle commissioni permanenti, per un totale di 45 progetti di legge licenziati. Tra gli organi di garanzia, il Corecom ha avviato 5 procedimenti nei confronti delle televisioni locali, presentando oltre 1300 istanze, numeri elencati dal presidente Mario Trampus. Il difensore civico regionale Arrigo De Paoli ha invece posto l'accento sulle 239 istanze ricevute da attività non convenzionate, mentre il garante dei diritti della persona Enrico Sbriglia ha ricordato degli oltre 120 procedimenti i 33 in ambito infantile adolescenziale. Barbara Clama, presidente dell'Osservatorio regionale antimafia, ha sottolineato infine la accordo quadro con l'Università di Udine per l'introduzione dei temi di competenza dell'osservatorio nei programmi accademici. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Proseguiamo con la giornata internazionale del migrante. A Trieste abbiamo raccolto la storia di Soheil Akbar, 28 anni, di origine iraniana, arrivato in Italia nel 2021. Oggi è referente della Caritas diocesana di Trieste per il dormitorio e frequenta un corso di laurea sull'intelligenza artificiale. Io sono partito dall'Iran, penso che 2020, e poi quasi 6 mesi sono stato lutto balcanico e sono venuto, e prima volevo andare verso l'Austria e poi la polizia mi hanno fermato qui a Trieste mentre che stavo entrando. E quando sei arrivato a Trieste, poi dove sei stato? Quando sono entrato a Trieste in 2021, marzo esattamente, quel tempo quando prendevano persone migranti illegali in strada, portavano un isolamento per prendere, per fare test Covid. E dopo 2-3 test, diciamo, negativi, ti trasferivano in un altro posto, che diciamo CAS, un centro accoglienza straordinario, che io mi hanno mandato in casa Malala, e questo luogo è in Fernetti, vicino confine Slovenia. E sei entrato in contatto con la Caritas, che poi è diventato anche una realtà con cui adesso lavori. Sì, in realtà tutto è successo, diciamo, in Campo Sacro, che era un isolamento per rifugi. Cioè, mi è piaciuto la lingua italiana, ho conosciuto operatori che ho chiesto esattamente questa domanda, che un giorno posso diventare un operatore della Caritas, e mi hanno detto sì, perché no, ma prima devi imparare l'italiano. Per questo ho deciso di stare qui. Ho cominciato a lavorare dentro un negozio di kebab e sono andato a Rimini a lavorare in pizzeria. In Italia, se tu studi, puoi avere una borsa di studio. Per questo ho detto, perché non studio quando c'è disponibilità che cominci a studiare? Adesso studio corso laurea intelligenza artificiale. L'Istituto Comprensivo Divisione Giulia di Trieste lancerà il proprio chatbot ufficiale a partire dal prossimo anno. Questo strumento tecnologico, fa sapere l'Istituto, renderà più semplice e veloce l'accesso alle informazioni sulla scuola. Il chatbot funziona come un assistente virtuale disponibile 24 ore su 24 per rispondere in modo immediato e intuitivo alle domande degli utenti ed è un sistema intelligente basato su tecnologie avanzate di intelligenza artificiale capace di offrire inclusività, accessibilità, efficienza e supporto continuo in diverse lingue. A chi saranno dedicati i nomi delle strade di Porto Vecchio a Trieste dopo la riqualificazione? L'associazione Trieste Bella ha presentato nel suo primo incontro di questa mattina al Circolo della Stampa alcune proposte. Si tratta di personalità importanti della storia della città che poi per qualche ragione sono state dimenticate. Propongono anche di accrescere il numero di totem informativi legati ai monumenti. Abbiamo sentito il presidente Ezio Righi per parlare dei nomi che suggeriscono. Porto Vecchio è di per sé una testimonianza della grandezza della Trieste dell'Ottocento. Andrebbero messi appunto in Porto Vecchio, in quel comprensorio, così come nel parco di San Giovanni ci sono dei nomi inerenti alla psichiatria, nel Porto Vecchio andrebbero nomi coevi di quell'epoca che avevano a che fare con la marineria. Noi avremmo Karl Weiprecht, per esempio, che fu un cittadino triestino che guidò la spedizione al Polo Nord e scoprì la terra di Francesco Giuseppe. Poi ci sono Bernhard von Wüllersdorf Urbair, era un triestino, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Venezia, e comandò la fregata Novara e inventò e applicò addirittura il primo cavo elettrico sottomarino. Sono cose che è difficile pensare potessero essere fatte a Trieste, nella Trieste dell'epoca, cioè oggigiorno persone del genere sarebbero a Milano. Un altro di questi personaggi è Giorgio Zaninovic, era un architetto, operò a Trieste realizzando edifici pubblici e privati, per esempio progettò i portali di ingresso al porto. Cosa significa per voi riprendere in mano la memoria storica della città? La memoria storica della città è la memoria di una grandezza industriale di Trieste che si è abbastanza persa. Oggigiorno si parla di turismo o altro, ma non vorremmo che diventasse una Disneyland, vorremmo ricordare quello che era stata la funzione centrale che era stata nell'Europa dell'epoca. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La Ceman Orchestra è l'orchestra giovanile del Centro Europa e vede capofila il Conservatorio Tartini di Trieste, affiancato dall'INCE, l'iniziativa Centro Europea. Da 7 anni riunisce i migliori giovani musicisti dei conservatori e accademie dell'Italia e dell'Ucraina, dalla Serbia all'Ungheria, dalla Moldavia alla Slovenia, Romania, Montenegro, Albania, Slovacchia, Bulgaria, Bosnia-Erzegovina e Croazia. E proprio a Zagabria il progetto della Ceman è stato premiato per la sua eccellenza artistica nell'ambito della cooperazione musicale internazionale e per la simbolica valenza di ponte musicale fra stati e popolazioni europee, con un prestigioso riconoscimento, il diploma di merito della UNSS Musicales della Croazia. Il premio è stato ritirato dal direttore musicale della Ceman Orchestra, il maestro Romolo Gessi, in rappresentanza del Conservatorio Tartini. Conchiglie dell'Adriatico e del Mediterraneo a confronto con quelle dei mari tropicali è la mostra Mare Nostrum organizzata al Museo di Scienze Naturali Alvise Comè di Gorizia. Inaugurazione questo pomeriggio alle 18.30. Il suo direttore Giuliano Spanger ci ha spiegato, tra le varie cose, quali sono le caratteristiche principali e le differenze. I mari caldi, il Mar Rosso, l'Australia, eccetera, in questi mari dove c'è più nutriente, le conchiglie sono più grandi, più belle, più variopinte. Già da secoli è cominciata la commercializzazione di queste conchiglie, che vengono usate in vari modi. Lo scopo della mostra è mettere proprio in antitesi le conchiglie nostrane, di cui possediamo una ricca e quasi completa collezione, con quelle esotiche. Molte famiglie di queste conchiglie sono le stesse che si trovano qua e si trovano laggiù. e la differenza si vedrà. Noi stiamo esponendo una serie di famiglie di queste conchiglie esotiche, ne abbiamo messe 6 famiglie, ma ce ne sono tantissime altre. Abbiamo messo i pecten, cosiddetti gli spondylus, i strombus, i murex, le cipree, gli aliotis, in corrispondenza a quelle nostrane, diciamo così, che sono belle anche loro, ma sono più piccole e meno colorate. Quindi diciamo che le nostre fanno una figura peggiore, diciamo. Peggiore esteticamente, però sono estremamente importanti, perché lo studio delle conchiglie ci dà immediatamente la situazione del mare, la situazione dell'inquinamento, soprattutto della vita e della forza del mare. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Marco Ferrito e Caterina Cabrelli. In redazione ha collaborato Laura Sarasini, D'Andrei Marusic e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.